d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Speciale Voci di piccola impresa. Benvenuti a questa puntata speciale di Voci d'impresa e Voci di piccola impresa, realizzata in occasione del Salone dell'imprenditoria femminile e giovanile Gamma Donna, che si è tenuto a Milano alla sede del Sole 24 Ore la scorsa settimana. Vi racconteremo le storie di due imprenditrici. La prima è Giulia Baccarin ed è la vincitrice del premio Gamma Donna 2016. Nel 2008 con due soci ha fondato iCare, azienda che si occupa di servizi e soluzioni per la manutenzione industriale utilizzando tecnologia predittiva, e nel 2012 ha dato vita a Mipu, un incubatore di start-up tecnologiche dove c'è una forte attenzione a donne e giovani e un'altrettanto forte vocazione internazionale. L'idea è nata nel 2007 in Giappone, e parlo dell'idea della prima impresa che ho cofondato, che si chiama iCare, che è un'impresa che fa manutenzione predittiva ai medici delle macchine. Poi, a seguito di questa prima esperienza, nel 2011 è nata l'idea di Mipu, che è un acceleratore di imprese nel quale ho cercato di fare mie le esperienze raccolte appunto con la mia prima azienda e che ho voluto dedicare al tema dei modelli predittivi. I modelli predittivi sono la risposta a un problema che esiste nelle nostre industrie o nelle nostre città, ovvero noi abbiamo tantissimi dati ma non sappiamo bene come utilizzarli per produrre una conoscenza strutturata che ci dia un maggior beneficio. Un maggior beneficio che può essere competitività per le nostre aziende, ma anche inclusione sociale e benessere nelle nostre città. E Mipu dà risposta a questa esigenza cercando di aiutare le piccole e medie aziende italiane a trasformarsi verso l'azienda connessa e predittiva. Voi siete un collettore di dati, un archiviatore e un organizzatore dei dati. E a chi vi rivolgete come clienti, come modello di business? I nostri clienti sono appunto le aziende che hanno esigenza di migrare verso una manutenzione, una produzione che sia più razionale, più intelligente e più predittiva. Appunto. Faccio un esempio: con iCare, i medici delle macchine, è possibile controllare un impianto e dire da 3 a 6 mesi prima se questo avrà un difetto, dove, per qual motivo e come correggerlo. E quindi è importantissimo perché le aziende possono, sapendo dove dovranno andare ad intervenire, programmare le manutenzioni, programmare la capacità produttiva, le persone, eccetera, eccetera. L'aiuto che avete ricevuto per sviluppare la vostra idea, qual è stato? Pensiamo che se un'idea è buona deve andare sul mercato da sola. Per questo motivo oggi Mipu e tutte le sue aziende non hanno nessun prestito né pubblico, nessun finanziamento, né pubblico né privato. Con l'utile della prima azienda abbiamo creato la seconda, con la seconda la terza e via dicendo. Sicuramente però devo dire che premi come questo di Gamma Donna e iniziative similari ci aiutano nel dare maggior visibilità al nostro lavoro e ai nostri sforzi. Il primo aiuto in ogni caso, e qui li voglio ringraziare, è venuto dai nostri clienti, da quelli che anche con un po' di temerarietà hanno creduto a un gruppo di ragazzi di 25-26 anni e li hanno fatti lavorare sui loro impianti. E questo è il punto, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. L'obiettivo di combattere il fenomeno dei cervelli in fuga è un obiettivo nobile, si autoimpiegano e quindi questa è la vostra mission. Noi avevamo un sogno con Mipu, ce l'abbiamo anche con tutte le start-up di Mipu, che è quello di invertire la tendenza per cui se sei bravo vai a cercare lavoro all'estero. Noi abbiamo scelto un posto che è il Lago di Garda, è un posto molto bello alle porte di Milano peraltro, e abbiamo comperato una casa che funge da foresteria aziendale e abbiamo ospitato in questi 4 anni 10 ragazze e ragazzi da tutto il mondo che sono stati a lavorare con noi, chi per 2 mesi, chi per 2 anni. Oltre a questo naturalmente abbiamo un team di ragazzi un po' da tutta Italia, avrebbero potuto far carriera ovunque, anche la mia personale è una storia di una persona che è rientrata dal Giappone per lavorare in Italia, ma hanno scelto di restare in Mipu e creare nuovo lavoro nel loro paese. Quindi in realtà non solo organizzate dati, ma organizzate anche la possibilità di successo, ma anche di visibilità di altri ragazzi, diciamo 35enni, quelli che sono i millennials, quelli che avranno bisogno di un altro contesto di lavoro. Come si possono rivolgere a voi? Noi stiamo cercando disperatamente, direi, personale con una formazione ingegneristica o matematica. Ecco, noi il nostro lavoro è nelle discipline tecnico-scientifiche, quindi questo soprattutto è il nostro bisogno. Possono inviare la loro candidatura attraverso il sito Stiamo anche cercando persone di esperienza che vogliano fare da mentori a questi ragazzi. L'età media in MIPU è di 26 anni. Un sistema Matrioska che aiuta i giovani talenti. Quanti ne avete aiutati fino adesso? Adesso siamo circa una quarantina e fatturiamo un complessivo di 4 milioni e mezzo di euro. E abbiamo grossi progetti sia di assunzione che di crescita, non solo in Italia ma anche in Giappone e in Corea. E questo per voi è essere open innovator? Direi di sì, speriamo che anche grazie a premi come questo le grandi aziende comincino ad aprirsi alle start-up e all'innovazione, diciamo, che viene dal basso. La seconda storia che raccontiamo oggi è quella di Maria Rita Costanza, che è stata presidente della giuria del premio Gamma Donna quest'anno, ma nel 2013 era stata una delle concorrenti ed era risultata la vincitrice. Maria Rita Costanza, ingegnere elettronico, fonda insieme al marito MacNeil azienda di Information Technology a Gravina di Puglia, affrontando la sfida di non emigrare. A giugno del 2014 la MacNeil entra a far parte del gruppo Zucchetti, grande azienda italiana di produzione di software. Costanza racconta come la sua azienda cresciuta nel settore ICT, dell'Internet of Things, di fleet management e di telemedicina sia ancora nel cuore di Gravina di Puglia. Vengo da Gravina in Puglia, una fantastica cittadina di non molto grande, 45.000 abitanti, della Puglia, dell'entroterra pugliese. Siamo un po' lontani dal mare, ma c'è la Murgia, che è un territorio prettamente agricolo. Quanto conta questo paesaggio? Che carica le dà? La riflessione che spesso facciamo, all'inizio eravamo in due, oggi siamo tre soci, perché c'è il mio attuale marito, appunto nonché socio, e poi c'è questo grande gruppo industriale che ha acquisito la maggior parte dell'azienda da circa 2 anni. E questa, se noi ci fossimo trovati a Milano, quindi con la stessa azienda che noi oggi abbiamo, con lo stesso core business, ci fossimo trovati a Milano, saremmo stati oggi 10 volte più grandi, però non sarebbe stata la stessa cosa. Noi oggi siamo contentissimi e molto più soddisfatti di quello che abbiamo realizzato rimanendo nel nostro territorio, probabilmente perché ci rendiamo conto che quando siamo partiti circa 16 anni fa era un territorio che cominciava ad avvertire questa necessità di riscatto, questa necessità di bloccare quello di cui tanto si sente parlare ed è la fuga dei cervelli. La sua storia di imprenditrice quando nasce? Subito dopo la mia laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, come fanno la maggior parte dei neolaureati, ho cominciato a mandare curriculum, poi quando ho visto che non avevo feedback dall'invio di questi curriculum, ho pensato, io e l'attuale mio fidanzato, oggi marito e socio, abbiamo pensato di sfidare appunto il territorio e quindi rimanere nel nostro territorio e realizzare un'azienda di information technology. A giugno di quest'anno abbiamo acquisito un'azienda molto più grande di noi nel nostro settore. Noi lavoriamo nel campo dell'automotive, del fleet management, della localizzazione satellitare, e abbiamo acquisito un marchio importante, GT Alarm, un'azienda del sud che parte 16 anni fa, 2 persone che arrivano, entrano in un grande gruppo industriale, e già qui c'è una scelta difficoltosa per noi, perché si è trattato di cedere una parte della nostra creatura, e questa è open innovation, una parte della nostra creatura ad un estraneo. Però l'abbiamo fatto pensando che ci avrebbe consentito di crescere in maniera molto più veloce, cosa che è avvenuta. Per lei e per suo marito, quando è nata questa idea? Torniamo alla mia laurea, perché ho fatto una laurea al Politecnico di Bari che aveva come diciamo argomento l'utilizzo dei servizi di messaggistica, degli SMS in ambito business, quindi come strumento di supporto alle aziende per comunicare con i propri clienti, per comunicare con i propri dipendenti. Quella è stata l'idea sulla quale poi abbiamo riflettuto e abbiamo detto probabilmente possiamo costruire dei servizi intorno a questo. Alla fine era un software, un programma che avevo realizzato. Grazie ai servizi di messaggistica siamo entrati in partnership con le compagnie telefoniche fino a diventare oggi siamo fornitori certificati Telecom Italia. Ma questo risultato viene da un percorso abbastanza lungo in cui c'è stata la gavetta anche. Da quando è partita questa Open Innovation? Chi vi ha aiutato a fare la svolta imprenditoriale, capitali, iniezioni di denaro, visibilità? Quando c'è stato un evento Gamma Donna, proprio come quello che è in corso oggi, nel quale il nostro ufficio stampa ha presentato la mia candidatura e sono stata invitata perché ero tra le 6 finaliste. Questo ha fatto sì che i giorni seguenti venissero fuori un sacco di articoli di giornale sull'evento Gamma Donna, organizzato molto bene, e quest'anno mi congratulo, l'ho già fatto personalmente con gli organizzatori perché è davvero un bel evento. Dopo un mese dall'evento Gamma Donna sono stata invitata Porta a Porta. In quella puntata di Porta a Porta si metteva a confronto un po' l'Italia che funziona, quindi l'imprenditoria che va avanti, e c'era la nostra storia, e poi c'era l'Italia, quella che non innova e che quindi chiude, c'era la Mivar. Il mio intervento è andato in onda a 12:30. Nonostante ciò c'era il fondatore del gruppo Zucchetti, che è il primo gruppo informatico italiano, che ascoltava, guardava la trasmissione. Il giorno dopo ha chiamato in azienda cercando me, chiedendo di me. Noi l'abbiamo presa come un potenziale cliente che ci sta chiedendo i servizi, in realtà non era quello, era un'azienda, una grande azienda che aveva visto in noi la possibilità di investire appunto in innovazione in settori specifici, che è quello dell'Internet of Things, dell'automotive, del fleet management, delle smart city, settori nei quali il gruppo Zucchetti non c'era. Naturalmente la mente si è aperta completamente. Pensare e convincersi del fatto che sono gli uomini che possono fare un territorio, possono dare valore ad un territorio, ma nello stesso tempo è importante confrontarsi con il resto del mondo. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione più lunga, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete anche scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.